La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e bentrovati a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Nella puntata di oggi Dino Pesole dedica il suo approfondimento alla proposta di legge che prevede l'istituzione di una nuova onorificenza, l'Ordine del Tricolore, a tutti i combattenti della Seconda Guerra Mondiale, repubblichini compresi. Dino Pesole ne parla con Alessandro Portelli, docente di lingue e letterature moderne presso l'Università La Sapienza di Roma. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Istituzione di una nuova onorificenza, l'Ordine del Tricolore, con tanto di assegno vitalizio per una spesa pari a 200 milioni di euro l'anno, da attribuire a tutti i combattenti della Seconda Guerra Mondiale, nessuno escluso. Dunque, anche a quanti, dopo l'8 settembre del 1943, presero le armi al servizio della Repubblica di Salò. E quanto prevede la proposta di legge presentata al Senato da un gruppo di parlamentari della Casa delle Libertà, primo firmatario Lucio Barani del nuovo PSI, confluito nell'attuale maggioranza di governo. Una proposta che ha dato vita a nuove polemiche. Di fatto, in nome di una vera o presunta pacificazione nazionale, hanno sostenuto gli oppositori della proposta, si porrebbero sullo stesso piano partigiani e repubblichini. Contro questa proposta sono scesi in campo due ex presidenti della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, il presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Vassalli e l'Associazione Nazionale dei Partigiani. È giusto che l'Italia sia pacificata, hanno osservato, ma la democrazia non ha alcun bisogno di pacificarsi con il fascismo. Non si può dimenticare, ha rilevato in particolare Ciampi, che la Repubblica di Salò appoggiò con la sua azione la causa del nazismo, contro la quale combatterono le forze armate italiane. Si riapre dunque una questione annosa, su cui del resto si è nuovamente ampiamente discusso lo scorso 8 settembre, quando il ministro della difesa Ignazio La Russa chiese pari dignità per i caduti di entrambe le parti. Barani si è difeso così dalle accuse. Non credevo che una delle mie iniziative parlamentari, peraltro condivise da tanti colleghi di varia provenienza politica, finisse sotto accusa. Non di riabilitazione si tratta, ma di comprensione, a distanza di mezzo secolo, dei giovani e meno giovani combattenti che dalla parte sbagliata hanno creduto di difendere il loro paese. Nessun revisionismo, ma una lettura più serena di una fase storica, che non è estranea neanche ad esponenti autorevoli dell'attuale sinistra, come l'ex presidente della Camera, Luciano Violante. E questa è la replica di Vassalli. Ma cosa vogliono ancora? Hanno avuto tutto. L'amnistia di Togliatti, la legittimazione democratica immediata, il movimento sociale italiano in Parlamento. Adesso sono al potere. Eppure vanno avanti incuranti del fatto che non esiste paese in Europa dove i collaborazionisti del nazismo sono premiati. Poiché, come è del tutto chiaro, questa è e sarà ancora una questione che divide le coscienze in un paese che presenta ancora molte ferite aperte a proposito del suo passato e che la lettura in chiave politica e di parte finisce per prevalere, non resta che affidarsi per un giudizio il più possibile sereno e distaccato a chi per mestiere ha il compito di analizzare, valutare e potremmo dire giudicare fatti su cui comunque si è ormai depositata la polvere del tempo, vale a dire gli storici. Con una premessa, però, su quei drammatici eventi, la storia il suo giudizio l'ha già emesso. Se avesse vinto il nazismo e chi lo sosteneva, non ci sarebbe stata democrazia e libertà. Fatta questa osservazione preliminare, abbiamo deciso oggi di ascoltare il parere di Alessandro Portelli, che insegna all'Università La Sapienza di Roma ed è stato anche consulente per la memoria del Comune di Roma. Buonasera, professor Portelli. Allora, i presentatori di questa proposta di legge sostengono che non si tratta di riabilitazione di quanti combatterono nella Repubblica di Salò a fianco dei nazisti, ma di comprensione a 60 anni di distanza dei giovani e meno giovani combattenti che dalla parte sbagliata hanno creduto di difendere il loro paese. Dall'altra parte, lo abbiamo ricordato, autorevoli critici come gli ex presidenti Ciampi e Scalfaro dicono che la democrazia non ha alcun bisogno di pacificarsi con il fascismo. Chi ha ragione, professor Portelli? Ma io penso che la pacificazione è avvenuta nel momento in cui a costoro che hanno combattuto contro la nascita dell'Italia democratica, l'Italia democratica ha riconosciuto la pienezza dei diritti civili e politici sono in Parlamento, sono li vediamo tutti i giorni nelle strade, nelle piazze, eccetera. Più pacificati di così non credo che sarebbe possibile essere. E quindi l'origine della polemica, secondo lei, è tutta politica? Ma io penso che sia un'origine sì politica e anche, diciamo, di cancellazione della natura stessa del processo di formazione del nostro paese così come oggi. Non si tratta di chiedere comprensione, nel senso che nessuno li perseguita, si tratta che questi pretendono davvero di aver ragione e di averla avuta anche allora. E questo a me sembra veramente inaccettabile. Più in generale, non ritiene che sia giunto il momento di cercare di arrivare per quanto possibile, se non a una memoria condivisa, perché è giusto che le memorie restino in qualche modo separate, ma quantomeno a una storia condivisa? In fondo la storia e il suo giudizio su quel che accade in Italia dopo l'8 settembre del 43 l'ha già emesso. Il punto è proprio che si sta cercando di rimettere in discussione il giudizio della storia. Io credo che, tra l'altro, appunto, questa è un'operazione profondamente antistorica che nega le ragioni per cui poi ci si è scontrati, nega proprio il senso di tutti quegli avvenimenti. A me sembra, appunto, ripeto, che una volta che, grazie all'esistenza di una democrazia, noi abbiamo in questo paese garantito i diritti civili e politici a tutti, compresi quelli che hanno combattuto contro, la memoria condivisa non possa essere una memoria in cui si è tutti d'accordo, bensì una memoria in cui ci si confronta sulla base però di conoscenze condivise. In qualche modo, appunto, le sta dicendo che è giusto che le memorie, come dire, separate convivino, ma che si arrivi però, diciamo, a una certa, poi alla fine a una sorta di ricomposizione dei contrasti. A 60 anni probabilmente ormai è giunto il tempo. Voglio dire, io non penso tanto a memorie separate quanto a un confronto, a un conflitto fra memorie e a una pluralità di forme di memoria all'interno di un dialogo, di una conversazione civile. A me sembra che se c'è qualcuno che sta continuando a riaprire questo conflitto è precisamente la destra ex, diciamo pure ex fascista, che approfitta delle posizioni di potere che ha conquistato per negare proprio il senso della vicenda della costruzione dell'Italia democratica. In questo senso la comprensione nei confronti di quelli che commisero l'errore e in molti casi il crimine di combattere a fianco di Hitler può essere una comprensione individuale, ma non può consistere in una riabilitazione collettiva in quanto, diciamo, categoria, e sicuramente non in una assimilazione a quelli che avevano combattuto per la libertà. Dopodiché, appunto, nessuno di costoro sta in prigione, insomma, nessuno di costoro è stato perseguitato, anzi sono andati in prigione anche molti partigiani mentre loro venivano rilasciati. Insomma, la pacificazione è avvenuta. Se per pacificazione si intende che dobbiamo tutti pensarla allo stesso modo, ecco, credo che la resistenza sia stata combattuta proprio per il diritto di pensarla in modi molto diversi e di convivere in base a regole. Un'ultima domanda, professor Portelli. Lei è stato anche consulente per la memoria del Comune di Roma, oltre a essere autore di numerosi libri su questo argomento controverso. Dal suo osservatorio, quale ritiene che sia la percezione, diciamo, presso l'opinione pubblica italiana oggi di quegli eventi, al di là, come dire, del fumo della polemica politica? Io credo che ci sia una stanchezza nei confronti del rifare a più di 60 anni di distanza le battaglie di 60 anni fa, e questo è esattamente quello che la destra revisionista sta facendo. Io credo che oggi l'antifascismo non consista soltanto nel tenere fermi i principi di allora, ma nel praticare nella realtà di oggi. Quindi oggi antifascismo significa significa per esempio libertà di espressione per tutti, significa rifiuto dell'esclusione sociale, significa che non si può tollerare che questa stessa gente che vuole equiparare i repubblichini ai partigiani poi dopo vada a bruciare i campi rom o a fare quello che è successo a Opera e in altri posti in Italia. Insomma, ecco, antifascismo oggi significa che i valori della Costituzione devono essere praticati nelle condizioni di adesso. Grazie professor Portelli, prego, ringraziamo arrivederci. Molto. La storia e la memoria. In occasione della giornata della memoria, che ricorre il 27 gennaio, Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi propone il radiodocumentario che racconta la storia della famiglia Friedman, straordinariamente scampata all'Olocausto. Settembre 1939, vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Irene Friedman ha 3 anni, sua sorella Margaret, 9. Irene Friedman. Il nostro nucleo familiare contava 4 persone. Mio padre avvocato, mia madre, mia sorella ed io. Vivevamo in un bel quartiere, nel quale non vivevano molti altri ebrei. Il primo settembre del 1939, quel mondo sereno viene sconvolto dall'invasione della Polonia da parte dei tedeschi. Il padre, Roman Friedman, si unisce immediatamente all'esercito polacco e parte con il suo reggimento. Margaret Friedman. Mio padre disse: devo raggiungere la mia divisione. Così lasciò Varsavia. Andarono fino al confine con l'Ungheria ed entrarono in territorio ungherese. Dopo l'ingresso di Roman in Ungheria, diventa impossibile ottenere informazioni sul suo conto. Le bambine e la madre perdono ogni contatto. Pochi mesi dopo, Margaret, Irene e la madre Lutka vengono cacciate dalla loro confortevole dimora. Sotto le nuove e spietate leggi, tutti gli ebrei di Varsavia vengono concentrati in una piccola area destinata solo a loro. È il tristemente noto ghetto di Varsavia. Roger Murhaus, storico e scrittore. Era un'area che comprendeva quello che un tempo era il distretto ebraico di Varsavia. Gradualmente, a partire dall'estate del 1940, una serie di decreti impose a tutti i polacchi non ebrei di lasciare quella zona, mentre gli ebrei della città furono obbligati a trasferirvisi in massa. Così divenne un'enclave ebraica. I nazisti, essenzialmente, vedevano nella popolazione ebraica una sorta di infestazione. Così tentarono di contenere gli ebrei all'interno di un'area nella quale fosse possibile controllarli agevolmente, osservarli e mandarli nei campi di lavoro. Il risultato di tutto questo fu la soluzione finale, l'Olocausto. Lutka Friedman e le sue figlie devono lasciare il loro bel quartiere e trasferirsi nel ghetto, un'area degradata e insalubre. Ancora Margaret Friedman. Il primo passo che fecero i tedeschi fu una cosa chiamata ghetto aperto. Potevi uscire dal ghetto, ma non potevi vivere in un'altra parte della città. Così io continuai a frequentare la mia scuola. Un giorno uscii di casa per andare a scuola, ma scoprii di non poter lasciare il ghetto. Era permesso solo a pochi, dotati di un lasciapassare. Tutti gli altri non potevano uscire. Ancora Irene Friedman. Era terribile. Camminavi per la strada e vedevi bambini sdraiati a terra, emaciati, con la pancia gonfia, perché non avevano niente da mangiare. Mia sorella mi spiegò che erano quasi tutte persone venute dalla Germania, che non avevano un posto dove andare e che erano state abbandonate lì. Ogni mese nel ghetto muoiono circa 4.000 persone. Alla fine gli ebrei morti per fame e malattie saranno oltre 100.000. Poi, a metà del 1942, un cambiamento improvviso della politica tedesca rende la situazione ancora più drammatica. È lo sterminio di massa. I tedeschi trasferiscono gli ebrei fuori dal ghetto. Inizia la deportazione. Dicono loro che saranno mandati a lavorare a est, ma in realtà quasi tutti sono segretamente inviati a morire a Treblinka, un campo di sterminio a nord-est di Varsavia. Nel ghetto, Lutka Friedman, sola con le sue bambine dopo la scomparsa del marito, capisce immediatamente che la famiglia è in grave pericolo. Ancora Roger Murhaus, storico e scrittore. Vari gruppi della popolazione del ghetto furono chiamati a radunarsi nel cosiddetto Umschlagplatz, che si trovava a poca distanza dalla ferrovia, nel ghetto. Lì ebbe luogo la selezione di quelli da mandare ai lavori forzati e di quelli da caricare a bordo dei treni diretti a Treblinka, verso la morte. Ogni treno conteneva circa 3.000 persone. Durante le massicce operazioni di deportazione dell'estate del 42, dal ghetto ne partirono anche due al giorno. Lutka vuole disperatamente trovare un modo per salvare le sue bambine. Sa che la deportazione significa morte certa. Sceglie allora di rischiare il tutto per tutto. Far scappare Irene e Margaret dal ghetto da sole. Entra in contatto con alcune persone che vivono fuori dal ghetto. Non sembra esserci un modo per far uscire le bambine insieme. Così, per quanto piccole, l'unica cosa da fare è farle uscire separatamente. Irene è la prima. Lutka non sa se rivedrà mai le sue bambine. Irene viene affidata all'autista dei Friedman, un cristiano polacco che accetta di rischiare la vita per nasconderla. Irene ora ha una chance di sopravvivenza. Salvare Margaret sarà più difficile. Il problema più grande ero io, perché avevo la faccia sbagliata, una faccia da ebrea. Mi fece andare con un gruppo di ebrei che lavoravano per i tedeschi. Andammo negli orti dei tedeschi a lavorare senza paga. Il tutto era organizzato dalla nipote di un'amica di mia madre. La donna porta con sé Margaret e la nasconde in un appartamento i cui inquilini sono in vacanza. La dodicenne Margaret, sola, si rifugia lì nella più totale segretezza. Non ha idea di cosa le succederà. Non sa se qualcuno andrà a cercarla. A Varsavia, alcune suore cattoliche sono disposte a nascondere i figli degli ebrei. Lutka contatta segretamente l'ordine delle sorelle della famiglia di Maria. La loro madre superiora è pronta a rischiare la vita per salvare i bambini ebrei. Lutka si accorda con le suore, che vanno a prendere le bambine ormai nascoste da settimane, per portarle dalla madre superiora dell'ordine. Le due bambine, alla fine, giungono sane e salve all'orfanotrofio, in un piccolo centro chiamato Pude. Le bambine ora sono relativamente al sicuro nel convento. Ma la madre è ancora nel ghetto di Varsavia. Danno per scontato che il padre sia morto. In realtà, a loro insaputa, è vivo. Si trova nella capitale ungherese, Budapest. Il suo reggimento è entrato in Ungheria, un paese alleato della Germania, e si è poi ritrovato isolato e impossibilitato a tornare indietro. Per il momento, Roman trova rifugio presso alcuni suoi conoscenti a Budapest. Nel convento polacco, Irene e Margaret tentano di andare avanti e fanno i conti con le privazioni della guerra. Nascondendo i bambini ebrei, le suore della famiglia di Maria rischiano di finire davanti a un plotone di esecuzione. Spesso i nazisti fanno irruzione nel convento alla ricerca di bambini ebrei. Malgrado il rischio, la madre superiora continua a nascondere le due bambine e a confortarle. Nella primavera del 1943, il ghetto di Varsavia ha i giorni contati. Meno del 20% della popolazione ebraica è rimasto in vita. Iniziano a crescere i sospetti sulle deportazioni. Alcuni ebrei riescono a procurarsi delle armi. E nell'aprile del 43 iniziano a resistere ai nazisti. Scoppia la rivolta. Ancora Roger Murhaus. La rivolta del ghetto fu una sorta di ultimo e disperato atto di gente disperata, che a quel punto aveva capito di essere condannata a morte. Il ghetto fu bombardato, assalito con i lanciafiamme, con i carri armati. A reprimere la rivolta furono le SS, truppe ben addestrate e particolarmente spietate. Il comandante incaricato dell'operazione era Jürgen Strupp, che aveva fama di essere il più feroce delle SS. Alla fine dell'operazione, Strupp comunicò a Himmler che il ghetto di Varsavia non esisteva più. La madre di Margaret e Irene è tra gli scampati al disastro. Riesce a uscire dal ghetto e si rifugia nella parte cristiana di Varsavia, dove, facendosi passare per cattolica, lavora alle dipendenze di un'anziana signora, ma vive nel costante terrore di essere scoperta. La storia e la memoria. Bentornati, il documentario che vi proponiamo oggi racconta la storia della famiglia Friedman, miracolosamente scampata all'Olocausto. Mentre le figlie Irene e Margaret si nascondono in un convento vicino a Varsavia, Ludka, la madre, vive sotto copertura nella capitale polacca. Il padre, Roman, si trova in Ungheria, ma la sua vita è ancora una volta in pericolo. Nel marzo del 1944, i tedeschi occupano il paese. Roman Friedman viene immediatamente denunciato e catturato insieme ad altri ebrei. Il suo destino sembra essere il campo di sterminio di Auschwitz. L'uomo è condotto al quartier generale della Gestapo a Budapest, dove gli eventi prendono una piega inaspettata e straordinaria. Roman si trova in una delle situazioni più difficili che un uomo possa essere chiamato ad affrontare. La figlia, Margaret Friedman. Appena giunto alla Gestapo, lo portarono dal capo. Lui si guardò attorno e vide una scacchiera. Così chiese al tedesco: «Scusi, signore, lei gioca a scacchi?» Quello gli rispose: «Che te ne importa, sporco cane di un ebreo?» Mio padre rispose: «Mio fratello è un campione di scacchi, è stato campione di Polonia e anche d'Europa». Il tedesco gli disse: «Scusi, signore», e mio padre osservò: «Sono salito di grado, da sporco cane a signore». Il nazista disse: «Io sono il miglior giocatore di tutta Colonia e ho avuto modo di giocare con tuo fratello in un campionato nel 1932. Siediti e gioca con me una partita. Se vincerai, avrai salva la vita». Al convento le figlie di Ludka apprendono che la donna è fuggita dal ghetto e che vive sotto copertura in un quartiere cristiano di Varsavia. Ma ben presto la sorte mette nuovamente la sua vita in pericolo. Il primo agosto del 1944 tutta Varsavia si rivolta contro i tedeschi. Questa seconda insurrezione, detta la rivolta di Varsavia, porta a 63 giorni di intensi combattimenti. E in quei due mesi muoiono 250.000 persone. Roger Murhaus, storico e scrittore. Il bilancio delle vittime della rivolta di Varsavia fu senza alcun dubbio spaventoso. Si stima che i civili uccisi furono circa 250.000. Fu una strage di proporzioni enormi. I tedeschi soffocano la rivolta e subito dopo iniziano a distruggere sistematicamente l'intera città, isolato dopo isolato. Margaret e Irene non sanno cosa sia successo alla madre e sono terrorizzate all'idea che sia morta durante la rivolta. Quando i tedeschi finiscono di bruciare la città, l'85% ne è raso al suolo. Varsavia praticamente non esiste più. All'insaputa di Margaret e Irene, Ludka, ancora una volta, è miracolosamente sopravvissuta. Ma è stata catturata, insieme ad altri polacchi, e mandata in un campo di concentramento tedesco, Ravensbrück. È un campo prevalentemente femminile. Migliaia di prigioniere costrette a vivere in condizioni disumane vengono fucilate, strangolate, mandate nelle camere a gas, bruciate vive, uccise con iniezioni letali o semplicemente fatte lavorare fino alla morte. Qui si svolgono alcune delle più inumane atrocità della guerra, tra cui i famigerati esperimenti medici dei nazisti. In questo lager Ludka è costretta a lavorare in schiavitù nei campi. Pochissime donne sopravvivono per più di qualche settimana. Intanto a Budapest, all'insaputa della famiglia, solo in un luogo lontano, Roman Friedman vince la più grande sfida della sua vita, battendo miracolosamente l'ufficiale. Rischiando molto, l'ufficiale nazista salva il prigioniero ebreo dalla camera gas e i due iniziano a giocare regolarmente a scacchi. Pur sapendo di rischiare molto, un alto ufficiale nazista stringe amicizia con un ebreo, proteggendolo fin quasi alla fine del conflitto. Mentre la guerra entra nella sua fase finale e malgrado le mille peripezie affrontate, i quattro membri della famiglia Friedman sono ancora vivi, ma i pericoli non sono ancora finiti. Le truppe sovietiche avanzano in Polonia e i tedeschi iniziano a ritirarsi, costringendo la popolazione civile a ritirarsi con loro. Al convento, le suore e Margaret sono obbligate a partire. Irene rimane sola. I nazisti vennero da noi mentre i sovietici si avvicinavano. Volevano evacuare il convento per far lavorare tutti noi nelle zone ancora sottoposte al controllo tedesco. Dato che io ero molto piccola e incapace di camminare perché ero malata, non potei andare con loro. Mia sorella dovette partire senza di me. Se si fosse rifiutata, l'avrebbero trascinata con la forza e forse l'avrebbero uccisa. Ma Margaret non può lasciare sola sua sorella. È decisa a fuggire dal convoglio tedesco e a trovare il modo di tornare a salvare Irene. Margaret Friedman. Provai a tornare al convento, ma non conoscevo la strada. Alle 2 del pomeriggio trovai la via che portava al convento. Quando arrivai avevo del pane, ma era tutto bagnato perché ero caduta nelle pozzanghere. Ma tornai con quel pane e Irene disse ai suoi amici: «Visto? Ve l'avevo detto che mia sorella sarebbe tornata». Finalmente, nel gennaio del 1945, i combattimenti hanno fine. Mentre i contingenti polacchi e sovietici liberano Varsavia, Margaret e Irene riescono a rimettersi in contatto con le suore. A quanto si sa, le due bambine sono orfane. Alla disperata ricerca di informazioni, Margaret decide di raggiungere a piedi Varsavia, devastata dalle bombe. Decisi di andare a cercare mia madre. Andai a casa nostra e attaccai al muro un biglietto con su scritto che ero sopravvissuta nel convento. Margaret lascia il suo messaggio affisso sul muro della casa di famiglia distrutta, nella vaga speranza che qualcuno lo trovi e le porti notizie dei suoi genitori. Quindi si rimette in cammino verso il convento. Qualche settimana dopo, Irene è inaspettatamente chiamata dalla direzione del convento perché qualcuno ha chiesto delle bambine. Incredibilmente, il messaggio che Margaret ha lasciato nella casa di famiglia non è andato distrutto. Roman Friedman, dopo essere tornato a Varsavia, lo ha trovato ancora affisso al muro della vecchia casa. Ma non ci sono notizie della madre. Dopo aver ritrovato le sue bambine, Roman Friedman si accinge a ricostruire la propria vita. Si stabilisce presso l'unico albergo di Varsavia ancora in piedi, mentre le bambine, per il momento, rimangono al convento. Danno per scontato che la madre non sia più in vita, ma non hanno informazioni sulla sua sorte. A Ravensbrück, in Germania, dove Lutke è stata portata, sono morte decine di migliaia di persone. Quando i sovietici liberano il campo di sterminio il 30 aprile del 1945, vi trovano meno di 4.000 persone ancora vive. Lutka è tra loro. Lutka riesce a fare ritorno a Varsavia, indossando ancora la sua divisa da prigioniera. Anche lei trova il messaggio lasciato da Margaret e si reca immediatamente al convento. Quando Lutka arriva al convento, le bambine stanno pregando nella cappella. Attende con pazienza che abbiano finito. Così, in modo davvero incredibile, i quattro membri di questa eccezionale famiglia ebrea, padre, madre e due bambine, sopravvivono al ghetto, alla prigionia, ai campi di concentramento e alla costante minaccia della morte. Ma nonostante il miracolo della sopravvivenza dell'intera famiglia, la storia e le circostanze dividono ancora una volta i Friedman. Dopo la guerra, malgrado le efferatezze dei nazisti, alcuni polacchi continuano a perseguitare gli ebrei sopravvissuti allo sterminio. Incredibilmente, i Friedman fanno un altro sacrificio e si rimettono in gioco. Decidono di far partire le bambine da sole. Persuadono un rabbino inglese a portarle entrambe in Gran Bretagna. Ancora Irene Friedman. Partimmo per l'Inghilterra il 26 marzo 1946. In tutto trascorremmo appena 10 mesi a casa. Non vidi più mia madre dall'età di 12 anni fino alla maggiore età. Le nostre vite rimasero separate. Benché sole e malgrado le gravi lacune nella loro istruzione, le due bambine riescono a studiare e a iscriversi all'università. Margaret si trasferisce in Francia, dove si sposa e avvia un'agenzia di viaggi. Irene si specializza alla scuola di medicina di Londra e diventa dentista. Anche lei si sposa. I loro genitori continuano a vivere in Polonia fino alla morte del padre, nel 1964. Roman Friedman è sepolto in questo cimitero ebraico a Varsavia, all'interno del vecchio ghetto, a pochi passi da dove sua moglie e le sue figlie sono sopravvissute all'inimmaginabile. Non resta quasi nulla del ghetto di Varsavia. Una città moderna e dinamica è sorta attorno alle sue macerie. Dopo la morte del marito, il governo polacco concede a Lutka il permesso di emigrare in Gran Bretagna. Lutka è sepolta nel cimitero di Golders Green, a nord di Londra. I suoi sacrifici non sono stati vani. Margaret, la figlia maggiore, continua a vivere a Parigi. Oggi ha quasi 80 anni, è vedova e in pensione. Ha 2 figlie e 4 nipoti. Credo che questo sia il mio successo principale. Mi è stato insegnato a non dare importanza al denaro. Mi piace vivere una vita normale, senza dover mai dire «Non posso permettermi di comprare una bistecca, ma non ho bisogno di niente di speciale». Sulla sponda opposta dell'Atlantico, a New York, la figlia più giovane di Lutka, Irene, è diventata un'apprezzata dentista e continua a lavorare ancora oggi, nonostante abbia superato i 70 anni. Vive in un bel appartamento a Manhattan e ha 2 figli e 4 nipoti. Credo che qualsiasi nazione potenzialmente sia capace di essere crudele e che ogni individuo sia capace di essere crudele. Molta gente odia i tedeschi o i polacchi, ma io ho molti amici tedeschi e il fatto che siano tedeschi non influisce su ciò che provo per loro, perché anche loro furono vittime del nazismo. I polacchi erano stati educati in un certo modo. La Chiesa cattolica in quel periodo sosteneva che gli ebrei avevano ucciso Cristo e che pertanto dovevano essere odiati. Così odiavano gli ebrei. Dunque, come biasimarli? Erano vittime di un lavaggio del cervello. Non credo sia possibile biasimare i singoli individui. Così, nonostante le terribili difficoltà affrontate, la famiglia di Lutka e Roman è sopravvissuta. La versione integrale di questo documentario andrà in onda su History Channel martedì 27 gennaio alle 21, col titolo La famiglia che sconfisse Hitler. Un ringraziamento in redazione a Laura Marchesi, Vittoria Mussini e Gloria Guerrera. La storia e la memoria si chiude qui e vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buona serata.